se Saltelli, segna Balotelli, e se Saltelli, segna Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Non stiamo a dire che sento tutto il giorno Radio 24, la lascio accesa anche la notte, tanto sono sola. Tutti convocati di Carlo Genta. Io zappavo la terra. L'errore che possiamo commettere martedì è quello di sottovalutare una squadra, è quello di arrivare a Malta pensando che tutti questi complimenti siano comunque punti presi, ma non è così, devi dimostrare sul campo la buona qualità di gioco. Troveremo una squadra che da un punto di vista tattico è completamente diversa, una squadra molto più unita, più compatta, ovviamente con meno qualità tecniche, ma che si sta allenando da mesi e mesi come se fosse una squadra di club. Loro si allenano settimanalmente assieme, quindi troveremo una squadra veramente difficile da affrontare. Ringrazio chiunque l'abbia detto, non mi reputo né tra i più forti né tra i più scarsi. Io sono io, vedo in me stesso un miglioramento e cercherò di migliorare sempre di più, ma comunque ringrazio chi dice questo, ma non giudico queste cose qua che dicono. Antes de só pode escrever um bom lugar, a gente já dançava o shimmy shimmy a. E siamo molto felici di avere la coppia d'attacco della nazionale, che è del Milan, ed è la più giovane coppia d'attacco delle top nazionali del mondo. E non preciso di óculos para enxergar. La formazione non ve la do, ho un dubbio tra Giaccherini e Cerci, e quindi me lo porto fino a domani a mezz'ora prima della gara. I ragazzi lo sanno e quindi ci penseremo fino all'ultimo minuto. Non facciamola troppo lunga. Malta Italia, insomma, non merita tutta questa pretattica, non merita tutta questa enfasi, esaltazione. Bella la copertina, però sempre sulla sigla dedicata a Mario Balotelli, che è la nostra stella nascente. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, e voi a questi microfoni come ogni giorno 800 24 00 24, e io vi aspetto numerosi. Poi parliamo anche, torniamo a parlare di Formula 1 con un collega, un amico che ieri avete evocato, e visto che noi siamo attenti oggi l'abbiamo chiamato. Però, nasce la nazionale dei blocchi a Malta, mentre Mourinho va verso il Chelsea. Ieri si era diffusa la notizia di Abramovich fermato dall'FBI, quindi in grossi guai, non a Chinatown, ma comunque negli Stati Uniti. A quanto pare, notizie fasulle, Mourinho andrà al Chelsea e io scommetto con voi. Grillo e Berlusconi sono due pagliacci, questo messaggio non mi appartiene. Ce l'ho sul monitor, lo leggo. Non sono due pagliacci, invece Balotelli ed El Shaarawy sono la coppia d'attacco della nostra nazionale, che secondo me sarà quella dei mondiali. Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo. Buongiorno, direttore. Ciao, buongiorno, ben trovati. Lascerei stare l'enfasi su questa partita e anche la pretattica di Prandelli. Che giochi Cerci o Giaccherini, sinceramente importa pochino. Giocheranno Balotelli ed El Shaarawy. È la nazionale dei blocchi, tutta Juventus e Inter, mi sembra fisiologico, perché nelle altre squadre giocano gli stranieri. Mi sembra anche un exit poll per la nostra nazionale, più che altro. Ma io credo che sia avviato un processo, insomma, che forse la cosa più interessante che esce da questa fase della nazionale è questo, cioè si sta cercando, come dire, un'identità, una squadra, e mi sembra che piano piano stia venendo fuori, stia affiorando, al di là dei blocchi, insomma, dato il tuo lapsus involontario fra Inter e Milan, ovviamente il secondo blocco è milanista, però credo che stia venendo fuori questo dato, cioè incominciamo ad avere una squadra con un'età media bassa, interessante, con qualche ovviamente senatore dentro, ma insomma giovani che stanno diventando titolari di questa nazionale. Di Sciglio, citavi Balotelli e Shaarawy ovviamente, lo stesso Cerci che è un 87, quindi ancora, come dire, lo dobbiamo considerare assolutamente un giovane. Sì. Si dice sempre che una squadra si debba essere un mix giusto fra esperienza e gioventù e freschezza. Sì. Quindi mi sembra che le premesse siano buone. Sì, mi sembrano anche ragazzi che crescono in fretta. Balotelli primo violino, El Shaarawy secondo violino, ognuno ha accettato il suo ruolo, mi sembrano, almeno si dicono, amici. Mentre c'è chi mi scrive che sono populista e comunista come il collega e amico Sebastiano Barisoni, non so perché, ma ve la giro. Mamma che palle Balotelli, dappertutto peggio delle tasse, non si può parlare un po' della FICO, scrive Marco. No, della FICO non parleremmo, però lo ospitiamo volentieri se vuol venire qui. Al di là del populista comunista di Raffaella Fico e di tutte queste menate, Matteo Marani, mi sembrano due giocatori che almeno a parole si integrano perfettamente. Sì, sì, io sono molto ottimista su questa coppia. Non so se annoiamo un po' a parlare di Balotelli, ma perché dobbiamo annoiare a parlare di Balotelli? No, cioè, è un grande giocatore, lo dico come iperbole. È una, no, ma ti dico, in questi giorni... Ma guarda, invece secondo me c'è una concentrazione fortissima da parte dei media, ma è inevitabile perché il meccanismo ormai... Vabbè, è ma è un grande giocatore, è personaggio, dice delle cose, perché non ne dovremmo parlare? No, qui andremo su un campo forse troppo ampio, cioè secondo me ci dovrebbe essere lo spazio anche per raccontare altre storie, al di là di quelle dei grandi divi del calcio. Dopodiché è chiaro che il meccanismo è questo, e secondo me è giusto parlare di Balotelli, dove soprattutto... Parliamo in termini tecnici, questa è la grande differenza, sì, io credo, cioè sì. Non parliamo più dei petardi che esplodono, non parliamo più delle sue fidanzate, anzi delle due in questo momento la fidanzata rappresenta, come dire, probabilmente un elemento positivo di Balotelli. Parliamo dei gol, dei grandi gol che sta facendo Balotelli, dal punto di vista anche numerico, di quanti gol sta segnando, quindi secondo me questa oggi è la cosa importante. Abbiamo un giocatore, uno dei migliori, secondo me non è ancora nei cinque, come dice Pirelli, nei cinque più grandi al mondo, ma sicuramente è un grande centravanti, ce l'abbiamo in casa, ha 23 anni, e credo che sarà l'uomo da cui passeranno molte delle sorti dell'Italia al mondiale brasiliano. E vedo in lui, vedo in lui un cambiamento, cioè mi sembra, o forse come voglio illudere, ma mi sembra che questo ragazzo stia incominciando a mettere a posto i tasselli. Tra l'altro, se posso aggiungere, sì, a differenza magari di qualche altro calciatore, non faccio nomi per non essere sgradevole, maleducato io. Dopo li faccio io. No, a differenza di qualche altro giocatore, Balotelli, anche nei momenti diciamo più difficili, a me non mi ha mai dato l'impressione di essere uno sbruffone, lo spaccone. Cioè, semmai, a volte mi dà l'idea di essere un po' disperso. Di essere stato un giocatore che aveva bisogno di punti di riferimento. Sì. Ora che li ha trovati nella famiglia, in una società comunque come il Milan, a cui va dato atto che le cose, come dire, girano, funzionano, hanno una capacità di gestire i giocatori che è abbastanza rara. Un commissario tecnico come Prandelli, evidentemente una compagna che in questo momento gli porta positività, un compagno di reparto come Shaarawy, abbiamo onestamente un altro giocatore. Ma sai, come tutti, mi vengono in mente i grandi sprinter, mi vengono in mente i grandi ciclisti, probabilmente è un po' fragile, lui ha bisogno di fiducia, il Milan l'ha trovata, e secondo me la parola chiave è questa, cioè l'avere la fiducia, il possedere la fiducia di quelli che ti allenano, di quelli che ti devono fare giocare, perché per me il grande problema di Balotelli in Inghilterra non erano Mancini, i tabloid o quant'altro, era il fatto che lui fosse sempre in discussione e sempre in viaggio tra il campo, la panchina e la tribuna. E secondo me non c'è niente di peggio per un giocatore giovane, fragile magari caratterialmente come Balotelli, dell'essere sempre messo in discussione. Direttore, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico e poi voglio farti una domanda su Totti prima di salutarti. 800240024, siete sempre tutti convocati su ogni argomento e su ogni sport, qui. A dopo. Possiamo salutare loro? Torni andare... Stefano? Torni più tardi? Non lo so. Ti posso convocare? Tutti convocati. Allora, Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo, c'è chi ti ringrazia per il libro su Arpad Weiss, perché è stato un vero piacere, scrive un ascoltatore che si chiama Giacomo, poi c'è chi scrive varie cose del tipo stupido, arrogante, non rispetta le regole, Balotelli non ha neanche riconosciuto la bambina della Fico, ma questi sono fatti che stanno fuori dal campo, io giudico il campo, le piste, guardo a quello che succede lì, quello che succede fuori di lì oggettivamente a me interessa abbastanza poco. Menzioniamo El Shaarawy, certamente, caro ascoltatore, che è un ragazzo serio e umile, diventerà un campione, ne ha tutte le qualità e forse lo è già, almeno in divenire, in itinere. 800240024, direttore Matteo Marani, si continua a parlare anche di Totti. Per questa nazionale io considero Totti uno dei più grandi del calcio di sempre, però basta così. Cioè, però basta così almeno per la nazionale, se no si rischiano un milione di equivoci, perché questa nazionale sta crescendo sotto stelle diverse. La penso esattamente nello stesso modo, tra l'altro noi abbiamo messo sul guerrino proprio di questo numero in edicola in copertina Francesco Totti, come a celebrare questo giocatore, e abbiamo messo Totti nella leggenda, che mi sembrava la sintesi migliore. Ma certamente fatto è qualcosa di leggendario, e credo che probabilmente quando Totti smetterà la carriera, quando sarà lì davvero, ci renderemo conto del portato, di che cosa ha segnato e che cosa ha fatto Totti, che insomma è veramente incredibile, considerando che l'ha fatto da Roma con una squadra non sempre da scudetto, che è arrivato davanti a tutti i grandi di calcio, e ci sono fatto ovviamente per Piola. Sì, però sono d'accordo, credo anch'io insomma che la nazionale non possa ripartire né aspettare ovviamente Totti. Mi sembra più una suggestione in questo caso di stampa, di opinione pubblica, di dibattito, che non reale, perché abbiamo bisogno invece di far crescere proprio El Shaarawy e i Verratti, cioè i giovani che ci porteranno in un nuovo corso. Non possiamo pensare di ripartire da un ragazzo di 37 anni come Totti, abbiamo bisogno di giovani, quindi grandissimo Totti, auguriamo che rimanga in campo molti anni, anche perché lo vogliamo continuare a vedere, ma onestamente secondo me la nazionale si deve affrancare dal suo passato e guardare avanti, anche perché si va a vincere con nazionali giovani, non con il ripescaggio nel passato, lo dimostra l'ultimo Lippi, se posso dire. E ascolta, allora questa nazionale si deve affrancare, deve provare ad affrancarsi anche da Pirlo e non so, da un giocatore che sta dando moltissimo come Barzagli, insomma mi sembra un mix. Sono un po' diverso, vado a memoria, Barzagli mi pare che sia un 81, 5 anni in meno. E Pirlo, no, ma questo è evidente. C'è un po' di differenza fra chi è un 76 come Totti e chi magari ha già 5-6 anni in meno. Sì. In questa fase credo che il passaggio più delicato d'Italia sarà il dopo Pirlo. Esatto. Penso che Pirlo è un giocatore abbastanza insostituibile. Bisogna vedere se Verratti sarà pronto per quel momento, qualcuno dice qualcuno fa altri nomi. Montolivo secondo me ha fatto una grande crescita di personalità in questa stagione nel Milan. Grandissime, sono d'accordo. Però Pirlo ha caratteristiche veramente speciali. Da un certo punto di vista io costo di più Verratti a Pirlo, sì, che non Montolivo a Pirlo, proprio come caratteristiche tecniche. Quindi secondo me l'erede designato è Verratti, che però ha 21 anni, quindi bisogna che cresca lui per prendersi questa eredità, che è un'eredità pesante. Al momento mi pare che il centrocampo abbia un suo equilibrio. La difesa, ovviamente partendo dal portiere, può avere qualche anno in più, ma lo sappiamo che questo fa parte delle caratteristiche dei difensori, che a volte possono avere anche qualche anno in più. Vabbè, ma tanti mondiali non sono tra 10 anni, sono dietro la porta, e mi sembra un mix comunque corretto questo tra stelle che nascono e giocatori che possono dare esperienza. Matteo Marani, direttore Guerri Sportivo, io ti ringrazio. Grazie a voi della convocazione. C'è chi sottolinea, come Enrico da Verona, che anche l'Inter ha dei blocchi, ma all'Argentina che vicino al cuor mi sta, e nella quale io aspetto ancora di veder esplodere finalmente Lionel Messi. C'è chi mi scrive: vergogna di cosa? Ascoltatore, vergogna di cosa? Chiamami. Dimmi di cosa mi devo vergognare. 800 24 00 24. Tiziano, Foggia. 800 24 00 24, il numero verde, messaggi 349 238 6666. Avete anche Twitter, avete anche la mail, tutti convocati a radio24.it, quindi completamente interattivi se volete intervenire. Io preferisco parlare con voi perché è più divertente. Tiziano, buongiorno e grazie della convocazione sempre. Allora, per rispondere un po' a quel ragazzo che ha mandato la mail del blocco interista, cioè rendiamoci conto che gli interisti possono parlare, cioè potrebbero non parlare, starsi zitti, perché per tutto quello che è successo dal 2006 in poi, mi riferisco naturalmente al discorso di Farsopoli, perché così va chiamato. E cosa c'entra con il blocco interista dell'Argentina? No, giusto per entrare un po' in polemica con gli interisti che dovrebbero stare tirata per i capelli alla lunga, stiamo parlando di Farsopoli, io dicevo della colonia no, argentina dell'Inter, per rispondere, perché loro sono un po' fuori dal mondo da quando è successo tutto. Tiziano, però parliamoci chiaro, di che cosa vuol parlare? Vuol parlare male dell'Inter? Vuol dire che l'Inter ha rubato e c'ha gli scudetti di cartone o ritirati in segreteria, come diceva Mourinho? Se vuole lo dica, eh? Cioè, senza stare a tirare in ballo gli argentini dell'Inter, cioè dica quello che vuole, no, senza problemi, eh? Siamo qui, ascolti, dica. Allora, non c'è bisogno che io lo ribadisca, perché purtroppo è notorio che lo scudetto di cartone, il fatto che loro proprio quell'anno, nel 2006, non dovevano iscriversi per tutte le schifezze che hanno fatto a livello proprio amministrativamente parlando. Cioè? Quindi se dovessimo parlare oggi... Quali schifezze amministrative? Perché l'Inter non doveva proprio iscriversi, hanno venduto il proprio brand. Perché? Come perché? Perché non doveva iscriversi? Perché per quale ragione? Nel 2006 loro hanno venduto il proprio brand, il proprio marchio. Sì. Una cosa incredibile, mai successa. No, mai successa no. Guardi, mai successa no. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa a proposito di Siena, del basket, Montepaschi Siena, che ha venduto il proprio brand ad una società di Rimini con 10.000 euro di capitale sociale, e lo ha venduto sopravvalutandolo di oltre 600%, e questa società di Rimini ha ottenuto un finanziamento da una banca tecnicamente fallita come la Montepaschi Siena per 8 milioni di euro, perché aveva un passivo Siena Basket di 5 milioni di euro. Questa operazione, che è stata fatta da Siena nel basket, che è stata fatta dall'Inter, che è stata fatta dal Manchester United, che è stata fatta da molte società sportive, che è stata fatta dal Siena Calcio, non è isolata. Quindi sarà borderline, sarà una questione della Guardia di Finanza, però non possiamo dire che è stata l'Inter ad inventarsi queste procedure. Diciamo così. Poi, un giorno che ci diranno che sono irregolari, cosa che credo non avverrà mai, forse purtroppo, allora ne parleremo. Però non possiamo dire che, insomma, che l'Inter non poteva iscriversi a qualsivoglia campionato, perché ha ceduto il diritto di utilizzo del suo marchio di merchandising, e soprattutto non possiamo dire che l'Inter è l'unica società che lo ha fatto, perché questo semplicemente non è vero. 800 24 00 24. Tiziano, la saluto e la ringrazio. Se vuole tornare a parlare di Calciopoli e Farsopoli, chissà quando finiremo, probabilmente mai nella vita, lo faccia pure. Nicolò, Modena, buongiorno. Salve mister Genta, grazie della convocazione. A lei, Nicolò. Anzi, a te. Posso darti del tu? Sì, assolutamente. Ecco, meglio così. Mi ha convocato, volevo parlare della nazionale. Ma certo, facciamolo. Allora, per me il futuro nazionale è a tre punte. Due punte, come dice lei, due chi sono? Sono già presi, sono Balotelli e Shaarawy. E la terza? E la terza, io spero, dal profondo del cuore, nonostante non sia un tifoso viola, in Pepito Rossi. Lo so. Così sarebbe veramente bello divertirsi. Tu hai ragione, ma io tre punte così sinceramente non le vedo. O il Shaarawy decide di fare l'eto di Mourinho, quindi di giocare terzino, può anche essere, oppure bisognerà fare delle scelte. È chiaro che Rossi lo stiamo aspettando tutti alla finestra, e non solo, aspettiamo che guarisca, aspettiamo di vederlo nella Fiorentina. È un giocatore di enormi qualità, non sei l'unico a pensarlo, perché vedo anche molti messaggi SMS, diversi messaggi SMS a citare, a ricordare comunque quello che questo giocatore può dare, e può essere una soluzione interessante. Viene, non dimentichiamolo, da un infortunio complicatissimo e ancora non l'abbiamo visto in campo. Però la sua candidatura dobbiamo metterla. Tu hai ragione. Rossano, Reggio Emilia. Buongiorno, grazie della convocazione. Volevo parlare di Alonso, della Ferrari. Certo. Allora, volevo ricordare, siccome Alonso mi sembra che gli sia permesso fin troppo, volevo solo ricordare chi è Alonso, che tanta gente secondo me non lo sa. Alonso ha vinto un mondiale con il Mad Dumper, giudicato fuori legge, l'aveva solo lui, dopo giudicato fuori legge. Alonso si scambiava le email con De La Rosa e Stefani quando era la McLaren, sempre con, per sapere i segreti della Ferrari. Alonso ha fatto il trusto con Piquet e Briatore per vincere la gara di Singapore e non mi dicano che lui non lo sapeva. Alonso ha perso 2 o 3 mondiali all'ultima gara, evidentemente qualche problema lo deve avere anche lui. Nonostante tutto è il più pagato, non essendo il migliore. No, questo chi è il migliore? Parere, eh? Chi è il migliore? No, ma mi dica chi è il migliore secondo lei. Migliore? Vettel? Presumo Vettel, adesso come adesso. Io continuo a credere che invece Alonso sia il miglior pilota del mondo, nonostante insomma le sue accuse, che mi sembrano interessanti e che gireremo ad un ospite che aspettiamo dopo la borsa. Io continuo a pensare che invece Alonso sia il più forte pilota del mondo sulla macchina che ha il budget più alto del mondo, e sono qui a domandarmi perché ci voglia così tanto per vincere un mondiale. Tutti convocati. Siete sempre tutti convocati a questo numero 800240024 per dire la vostra su ogni argomento di sport. Come Piero dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno, un piccolo chiarimento riguardo il mister della nazionale. Allora, proprio l'altra sera in conferenza stampa ha detto che lui lavorerà su questo gruppo. Ora qualche modifica, ma tutto sommato il gruppo è questo. La domanda che voglio fare è questa qui: vi ricordate la finale degli europei? Siamo stati derisi dalla Spagna. Lui ha detto, testuali parole, me le ricordo troppo bene, il giorno dopo ha detto non me la son sentita di non far giocare la finale a chi ci ha portato in finale. Per me è stata un'umiliazione incredibile, ma anche per quei 10-12 giocatori che non sono entrati in campo. Vedere gente, io sono un tifoso juventino, vedere gente come Chiellini che quel giorno lì si trascinava, e vedere gente in panchina, che io preferisco vedere gente in forma in campo, poi possiamo perdere. Siamo stati derisi. Sì, grazie, io, e Piero, buongiorno. Grazie, sì. A lei e buongiorno. Però io capisco, gli allenatori sono così, io capisco, posso non condividere insieme a lei, però io capisco Prandelli, perché tutti gli allenatori sono così, cioè vanno con i giocatori che li hanno portati fin lì, ma neanche per una questione di riconoscenza, per una questione di fiducia, per una questione di emotività, per una questione del fatto che comunque tutti gli allenatori, nel momento in cui arrivano all'atto decisivo, non cambiano, e secondo me in una certa misura fanno anche bene, perché cambiare vuol dire anche dare un segno di debolezza in alcuni casi. È vecchio il detto: squadra che vince non si tocca. Forse anche fuori luogo, forse anche sbagliato, e possiamo metterlo in discussione finché vogliamo, come tutti i luoghi comuni di questo mondo. Però è difficile trovare un allenatore che ha una squadra che arrivi in finale e alla finale cambia qualcosa. Questo è veramente molto difficile, quindi non mi sento di mettere in croce Prandelli con il senno di poi, di molto dopo, di molto molto dopo, per quella scelta che fece. La Spagna è più forte, aveva più gambe, probabilmente noi non ne avevamo più dopo quella fantastica partita contro la Germania, però io vi sfido voi a dirmi con onestà se dopo quella partita contro la Germania avreste cambiato qualcosa, e se mi dite che dopo quella partita contro la Germania avreste cambiato qualcosa, vi cresce il naso e io lo vedo anche per radio. Formula 1. They were close in mouth, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. Attenzione all'incrocio con Webber, adesso deve andare sulla destra Fernando Alonso. No, non rientra in box. Perché vuole aspettare che la pista sia per asciutto, per fare solo un pit stop, così non è svantaggiato con gli altri piloti. Ma se l'ala si rompe, sarà in grande, grande difficoltà lui. Eccola che si è rotta! Eccola che si è rotta! L'azzardo non ha pagato! L'azzardo non ha pagato! Finisce qui! There was something in the air that night, the stars were bright. Sento convocato, sempre e d'altra parte, e come tutti gli italiani mi sento anche un mister, e voglio suggerirle e suggerirti di convocare il grande Leo Turrini. Noi siamo abbastanza democratici e siamo ubbidienti alle direttive dei nostri ascoltatori, e quindi chiamato a gran voce Leo Turrini. Ciao Leo. Ciao, meno male che mi hai convocato tu, perché se fossi stato chiamato da Bersani alle consultazioni non avrei saputo cosa dire. Qui invece su Alonso Formula 1 credo di essere abbastanza preparato. Dicevo l'altra sera che ho visto il film di Bisio dove fa il Presidente della Repubblica per caso. Com'è? Io non l'ho ancora visto. Non male, mi ha fatto ridere. Mi ha fatto ridere Giuseppe Garibaldi, pescatore di montagna, che viene eletto dal Parlamento, sai, solita satira sui nostri malcostumi. Ma noi siamo fatti così, no? Adesso ho gli ascoltatori che mettono dei dubbi su Alonso. Beato te che hai queste certezze su Alonso. 43 anni che seguo gli sport motoristici, non ne ho come le tue. Io ce le ho. È il più forte pilota del mondo. Ora io non lo so, Leo, c'è chi dice che quella mancata sosta è colpa sua, c'è chi dice che è colpa dell'allenatore o degli allenatori ai box, insomma decidiamoci. No, guarda, allora, intanto io premetto che considero Fernando un grande campione, questo rimane al di là dell'episodio di domenica. Penso che domenica Alonso abbia sbagliato, perché in quella condizione doveva, anche per una sorta di rispetto delle esigenze di sicurezza sue e degli avversari, rientrare ai box e sostituire l'ala. Gli va però concesso un'attenuante generica, nel senso che effettivamente la pista si stava asciugando. E di lì a 2-3 giri tutti poi sarebbero stati costretti a ripassare dai box per montare le gomme slick. Quindi lui da combattente, ma pilota vuole vincere, ha fatto il ragionamento: se mi fermo due volte in 3 giri sono ultimo e la gara è finita lo stesso, ecco. Senti, però, Leo, posso farti una domanda da spina, da uno che non sa, da uno che non sa niente, ma da uno che non sa niente, che insomma, io sono stato ho provato moto che andavano molto forte, l'adrenalina ti schizza nelle orecchie, non sono un pilota di moto, non sarò mai un pilota di macchine, su una Formula 1 non sono mai salito, però si può chiedere, pur a un grande campionissimo come Alonso, che per me rimane il numero uno, di prendere in quel momento, dopo la partenza, dopo un contatto, con quello che hai dentro, gli si può chiedere di ragionare, riflettere, dire ok, torno ai box, aspetto 4 giri, oppure ci vuole uno fuori da quella macchina e con magari un po' più di freddezza e di lucidità, che dice, vede magari oltre il primo passaggio e anche il secondo e dice no, vieni dentro. Vedi, secondo la mia modestissima opinione, che non l'ha fatto, Alonso domenica non ha ascoltato il suggerimento di chi stava al muretto della Ferrari. Perché quando tu senti Stefano Domenicali alla fine del Gran Premio dire lì abbiamo preso un azzardo troppo grosso, abbiamo sbagliato, vuol dire che si sono rimessi all'istinto del pilota, perché poi sinceramente dentro l'abitacolo c'è lui, è lui al di là di tutti i dati di telemetria o immagini TV che ha la sensazione se l'ala danneggiata vibra troppo, se si può restare fuori per 2-3 giri. Detto questo, tu dicevi ma come fa uno, l'adrenalina eccetera, sì, però io vorrei integrare la tua osservazione dicendoti che tu vai in macchina, magari c'hai il viva voce, stai parlando al telefonino, c'è il semaforo, poi dopo dai anche quello che ti vuole vendere lo strillone, il giornale, capito? E prendi forse, non lo so, uno stipendio normale. Alonso e tutti gli altri piloti di Formula 1, per prendere quelle decisioni prendono dozzine di milioni di euro all'anno, sì, quindi sì, insomma sono poi anche remunerati perché assumono una responsabilità, ed è giusto così. Cioè, io trovo che sia giusto così, perché sono lavoratori infungibili, Leo, quindi non voglio fare non discorso. Sono Carlo o Leo in autostrada, no, che magari siamo distratti, questi non debbono essere distratti, non devono fare quel mestiere lì. No, no, no, ma io mi domando se io considero Alonso il pilota più forte del mondo e la Ferrari è la macchina che ha maggiori potenzialità, maggior budget, maggior prestigio, eccetera. Mi domando se possono fallire ancora. Sai, c'è una cosa che mi ha colpito in negativo domenica, e non è questo episodio del mancato rientro in box, è quell'ultimo bacio, nuova versione a 300 all'ora del film di Muccino, che Alonso è andato a dare al retrotraino della Red Bull di Vettel dopo tre curve. Sì. Ecco, quello non è da Alonso, perché con tutto un gran premio da disputare in condizioni anche particolari, lui non aveva, secondo la mia modestissima opinione, ripeto, l'esigenza di attaccare subito, no, il brufoloso tricampeau do mundo. E questo poi innesta un'altra riflessione. Io ho il sospetto che Fernando possa essere vagamente innervosito dal fatto che questo storico pippone di Massa si è messo che in qualifica gli caccia sempre la paga, perché fra gli ultimi due gran premi della passata stagione, i primi due di quest'anno, stiamo Massa 4, Alonso 0 in qualifica. Sì. Che è incredibile, hai capito? Sarà incredibile, ma Massa è il re delle cause perse. Io sono fa riflettere questa cosa. Guarda, sì, che è come dire Bersani premier, Alfano vice premier, hai capito? Può anche accadere, ma tu rimani basito, non ci credi, no? Ma ci credi o no? Bersani premier, Alfano vice premier, ci credi o no? C'entro un cacchio con lo sport. Io però, farei Bersani premier, Alonso vice premier. Io farei Alonso premier Vettel vice, sì, bravo. Vettel vice perché è uno crucco con i cosiddetti, anche se gli ascoltatori poi non mi danno retta, gli dicono cattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Invece tu l'hai vista giusta ieri, scrivendo sul tuo blog, si è vista la differenza tra la cattiveria di un grande pilota e l'onestà di un mestierante come Webber. E io valuto, Leo, io valuto la pista. A me, per me tante chiacchiere stanno a zero. Io godo dell'agonismo, godo dello spettacolo dello sport, e quindi a me tanti ragionamenti e tante comunicazioni e tante strategie importano pochissimo, perché quel duello è stato la cosa più bella della domenica. Vuoi che facciamo uno scoop, Carlo? Aspetta, allora stai lì, stai lì che ho il traffico. Sì. Per lo scoop ci vuole un minuto di pazienza. Va bene, ok. Stai lì, Leo. Tutti convocati. La gara terminata, è molto facile dire che è stato preso un rischio non necessario, sicuramente un rischio che non dovevamo prendere visto appunto l'importanza dei punti. Quindi abbiamo pensato che era meglio continuare, vedendo che la macchina non sembrava male. È stato un peccato, un rischio che si è preso per non diventare ultimi, molto ultimi. È un fatto che la sfortuna è stata terribile. Queste le versioni di Domenicali e di Alonso. Leo Turrini, storico inviato e scrittore. Sentendo Alonso, non ti venivi in mente, a proposito di Domenicali, Totò Schillaci, quando disse sono completamente d'accordo a metà con il mister? A metà con il mister, sì, certo. Perché insomma, no, sono due versioni vagamente contraddittorie. No, ti avevo promesso uno scoop, però. Dimmi, alla Biscardi. Parlavamo di Vettel, no? Sì. Allora, vedi, la verità è questa. Il sabato sera Vettel in pole position e Webber un po' più indietro. Alla Red Bull temono di avere qualche problema di troppo col consumo delle gomme, e quindi dicono ai piloti: dopo l'ultimo cambio gomme, qualunque sia la posizione che avete, la mantenete, perché non possiamo rischiare di arrivare sui cerchioni. Questi bibitari furboni davano per scontato che Vettel, partendo dalla pole, quando parte dalla pole questo ragazzo è un missile, sarebbe stato largamente davanti all'australiano, al cangurone, no? Si sono trovati nella situazione per l'andamento di gara che era davanti Webber. A quel punto lì viene fuori un fatto che tu hai colto benissimo: un campione, soprattutto in automobilismo, è sempre anche un po' canaglia, che ci giriamo attorno. Per cui Vettel, che era dietro, ma neanche per responsabilità sua, insomma, per cose che erano accadute, cosa ha fatto? Ha detto: ma quell'ordine là, quell'accordo, quel patto, io me ne strafrego, no? E lui è andato a fare una manovra da urlo, perché il sorpasso che ha infilato, insomma, è un gesto estremo che, se la vediamo solo come sorpasso, è da applausi e stop. Bravo. Bravo, e posso dirti una cosa assolutamente impopolare? Io sto con lui, perché a me piacciono quelli così. Ma sai, allora, ragionamento è questo: è chiaro che se guardiamo, ripeto, il gesto, l'azione, anche il coraggio, è difficile dire che Vettel non abbia fatto un sorpasso da paura. Appunto. Bisogna però essere, per onestà intellettuale, completi. Mettiamoci nei panni di Webber, cioè prima della corsa è stato preso un accordo, io lo rispetto, tu no, anche perché... Poi quando vedi che quello ti attacca, quando vedi che quello ti attacca, tu o resisti o lo fai passare. Lì resistere significava buttarlo fuori. Ma sai... gli è passato a 2 centimetri col muretto al limite, se vuoi fare cattivo, poi è chiaro che è come tagliarselo per farlo alla moglie, però... Mi viene in mente Carlo Sandro Pertini, grande presidente della Repubblica, visto che tra un po' si legge presidente della Repubblica, che per vicende politiche sarà Giuseppe Garibaldi. Beh, disse: a brigante, brigante mezzo. Sì. Diciamo che se Webber avesse voluto essere cattivo come Vettel, lo doveva buttare fuori. Poi accadesse quel che accadesse, la corsa l'avrebbe vinto una Mercedes. Eccetera. Bravo, io ho visto dei grandissimi farlo. Sì, sì, ma guarda che sono realtà. Senna Prost? Ricordi qualcosa? Sì, però c'è una differenza, che forse Vettel somiglia a Senna sia in qualifica come vittorie conseguite. Webber 4 mondiali come Prost non li vincerà mai. Ma, no. Ma non ne vince neanche uno. Non ne vince neanche paragone, hai capito? Però diciamo che sul piano della realtà, nel rapporto tra compagni, Vettel sicuramente... c'è anche giustificato alla fine, non è stato esemplare. E l'hanno anche crocifisso a partire da Horner, deve chiedere scusa al mondo in ginocchio sui ceci. Ma questi della Red Bull qui poi non ci hanno fatto... Sono un po' democristiani. Molto. Poi sai, la cosa un po' seccante è che questi bibitari per anni ce l'hanno menata che loro sono un modello di trasparenza, che non sono come la Ferrari che fa i giochini, che noi siamo italiani, che lavoriamo dietro le quinte. Poi alla seconda gara dell'anno, non alla 16ª, vieni a sapere che avevano deciso prima della corsa l'ordine d'arrivo. Allora, insomma, ragazzi, stappate le vostre lattine, bevande gassate, ma piantatela di darci lezioni di etica. Bravo Leo, bravo Leo, anche se c'è chi mi scrive, c'è qualcuno che sta con me e con Vettel, altri che dice: celebrate pure i furbi e i paraculi, siete proprio italiani medi. Damiano da Roma: io invece celebro la pista e i grandi campioni. Poi del resto non celebro i furbi, celebro quelli che su una pista o su un campo fanno un duello faccia a faccia. Per l'amico Damiano, io ho detto che Vettel ha torto, Tu l'ho appena ripetuto. Tu sì, ma io no. Io mi piglio le mie. Cioè, a me la cosa che dà fastidio, insisto su questo, è che in Red Bull, dove peraltro sono bravissimi, hanno vinto 3 titoli mondiali di seguito, si sono sempre impancati, no? Sai, con questo atteggiamento sembrano la Bundesbank. Ah, voi italiani qui, no? Lo spread, straccioni, furbetti del quartierino, qui là. Poi vai a grattare sotto la superficie e vedi che questi sono più furbetti del quartierino dei nostri, insomma. Beh, allora che la smettano, ecco, vincete, visto che vincete, aggiungo io, purtroppo. Poi almeno... se danno pari gradi, almeno tenetevi pari gradi, allora fate i galli nel pollaio, allora poi a quel punto, all'ultimo giro, chi ne ha va. E ciao, Leo, è sempre un piacere parlare con te. Andrà avanti, Carlo, lo è per me. Io ti dico, ti vorrei al governo, un governo di scopo. Per carità, forse in un altro paese. Va bene. Prima o poi è negro e tu vieni con me. Ciao, buon Leo. Grazie a tutti. Leo Turrini. Allora, abbiamo tempo ancora per gli ascoltatori. Denis, provincia di Venezia, Massimiliano, Reggio Emilia, Andrea, provincia di Varese, 800 24 0024. Vi voglio bene. Denis, buongiorno. Buongiorno signor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io sono tipo interista, però... Scusi, posso dire una cosa? Si scrive, sì, se volete scrivermi messaggi, non si scrive celebroleso, ma si scrive cerebroleso, per correttezza insomma, in onore dell'italiano. Se proprio volete scriverlo, cerebroleso, ok ascoltatore? Dica. Dica. Allora, io sono un interista, però in questo periodo è meglio non parlarne. Mm. E visto che state parlando di motori, mi sembra un po'... mi sembra dover dire anche il fatto che mi sembra che la Formula 1 e soprattutto la MotoGP vengano prese in considerazione soprattutto per gli sponsor. Quindi mi sembra più uno sport di marketing, mentre ci sono... Io sono anche appassionato di motocross. Sì. E quindi ci sono campioni come i 6 volte iridato Cairoli, che mai in una rivista cioè in un giornale sportivo, oppure in una trasmissione tipo nella Rai, oppure a Mediaset, non viene mai preso in considerazione. Sì. Mi sembra che quest'anno addirittura hanno messo la Superbike in Mediaset. Sì. E purtroppo per seguire la MX1 della motocross dobbiamo seguirla su Sport Italia, che secondo me è un canale che mi rendo conto, però mi rendo conto, però sono questioni di cassetta. Dennis, lei ha ragione, Caroli è un super campionissimo, però certe volte bisogna anche fare i conti con i numeri, no? E ovviamente le televisioni fanno i conti con i numeri. Caroli che noi abbiamo sentito diverse volte, ma non perché siamo noi, perché ci piace lo sport e soprattutto perché è un super campione dello sport italiano, poi perché a me le moto piacciono da impazzire, strada, fuori strada, eccetera, eccetera, lo celebriamo finché possiamo. Poi le televisioni fanno ovviamente anche dei ragionamenti di ascolto e di cassetta. Massimiliano da Reggio Emilia. Signor Genta, buongiorno. Andrea dalla provincia di Varese, posso dirle una cosa? Pronto? Sì. Andrea? Sì? Ci sentiamo domani alle 2. Va bene. Anche grazie. Con Massimiliano? Sì? Anche con lei, convocato domani alle 2. Va bene, nessun problema, la ringrazio. Grazie a voi. 14:55 e 20, tra 10 secondi mi spengono il microfono e quindi sarà il caso che vi saluti. Ringraziando Franco Piantrini, autore di questo programma, e Roberto Scaltriti in regia. Io zappavo la terra. Zappavi la terra, va bene, ho capito. Però questi due ascoltatori sono convocati domani alle 14. Ciao a tutti. Allora, insomma, ragazzi, stappate le vostre lattine di bevande gassate, ma piantatela di darci lezioni di etica.